Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, buonasera. Eccoci qua, come ogni domenica, con Gesi e Antonio. Antonio, come va? Benissimo, grazie. Ah. Anche perché abbiamo un ospite particolarmente gradito, certo, anche certo, questa sera. Certo. Abbiamo con noi l'uomo del Tabaro, Tiziano Spigariol. Ciao, buonasera, Tiziano. Buonasera a tutti voi. Bentornato. È sempre un piacere averti qui con noi. Benissimo. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi. Sulle frequenze 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming o di effettuare il download dal sito bluradioveneto.it. Naturalmente un cordiale saluto al nostro regista e a tutti i collaboratori di Blu Radio Veneto. Certo. Benissimo, allora Antonio, allora andiamo con la prima canzone che è in carattere, diciamo, con l'argomento di questa sera. Io ritengo che Andiamo a mietere il grano. Bene. Di Luisel. Andiamo a mietere il grano. Raccoglieremo l'amore e sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi, e tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore, mentre i covoni di paglia profumano l'aria intorno a noi, ci scambieremo con gli occhi i segreti nascosti in fondo al cuore. Sotto un ciliegio baciato dal sole l'ombra potremo trovare, e sotto un cielo di mille colori cominceremo a sognare. Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore. Raccoglieremo l'amore. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, del quale tracciamo un profilo sintetico e non esauriente, naturalmente. Allora, Tiziano Spigariol, universalmente noto come l'uomo del Tabaro, è un poeta, imprenditore, esponente di punta dell'artigianalità, che dopo ci spiegherà che cos'è, bon vivant e cultore dell'epopea contadina. Bene. Ho dimenticato naturalmente alcune cose, tralasciate, perché evidentemente lasceremo al nostro ospite l'onere e l'onore di darci altre delucidazioni. Certo. Prego, Tiziano. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Per me è sempre un piacere venire in questa trasmissione con questi due meravigliosi amici, ma soprattutto con un pubblico che so attento e partecipativo. Io non starei tanto a parlare di me, delle cose che faccio, che ho fatto e che mio malgrado continuo a fare. Dico mio malgrado perché vive in me questa idea che ho voluto scrivere nella lapide di mia madre, che dice semplicemente: siate innamorati sempre dei vostri sogni, anche se vi procurano tormento. Io credo che la vita debba continuare ad essere un sogno. Tutti noi dobbiamo avere un sogno. Un sogno a misura... Chiuso nel cassetto. Sì, ma da perseguire a misura ognuno della propria identità, delle proprie aspirazioni, del proprio sentire. Forse un tempo si sognava di più. Quello che io oggi, diciamo così, noto, non approvo e condanno è soprattutto il fatto che i nostri giovani, che sono poi i futuri uomini di domani, non abbiano molti sogni, siano stati costretti a non avere molti sogni. Vedo un grosso appiattimento e questo mi dispiace moltissimo. Per questo, con i mezzi che ho a disposizione, poveri, semplici, quasi del passaparola direi, cerco di adoperarmi perché anche loro, vorrei dire soprattutto loro, imparino ad avere dei sogni. Ma per avere dei sogni bisogna essere messi anche nelle condizioni di poterli avere. Certamente. Allora, il suggerimento che do ai nostri ragazzi è assolutamente quello di non mollare mai, di non lasciarsi, diciamo, appiattire, di non prostrarsi anche di fronte all'evidenza, perché sono convinto che per quanto di negativo possano fare tutti coloro, quei pochi ma comunque riescono a far tanto male, che amministrano la cosa pubblica, ma soprattutto la società, sono ancora convinto che se noi vogliamo non riusciranno ad appiattire tutto completamente. Per cui, ragazzi, forza, coraggio, datevi da fare. E ai politici o agli occulti, diciamo, poteri che stanno dietro tante volte i politici di facciata, un suggerimento. Io credo che farebbero meno fatica se imparassero ad essere un po' più furbi, forse, no? Ad accontentare meglio le persone, esatto. A dare un'aspirazione. Infatti. Si parla tanto di mancanza di lavoro giovanile. Io non ho la soluzione in tasca, però, per esempio, faccio una grande riflessione legata alla terra. Allora, dati alla mano, il bosco in questi ultimi 30 anni ha preso il 27% del terreno che prima era coltivabile e coltivato. Il bosco è parte e natura, è parte attiva, lei lavora sempre, cammina sempre, rosicchia sempre. Quello che un tempo faceva l'uomo nei suoi confronti. Ma non essendoci più quasi nessuno a lavorare in montagna, a presidiare il territorio esatto. E a lavorare questo territorio, questa è la conclusione del discorso. Allora dico, se ci fossero degli incentivi per fare in modo, ma importanti, coordinati, collaborativi, giusti, intelligenti, scientificamente corretti, agronomicamente corretti, degli incentivi ai giovani per ripopolare la montagna, io credo che migliaia e migliaia di giovani avrebbero un lavoro sicuro. Poi, legato sempre alla terra, vorrei dire il problema di quello che viene prodotto. Noi abbiamo delle nicchie di produzione. Anche quando parliamo di mais o di frumento, cioè di seminativo, che dovrebbe essere, e quando si parla di seminativo la gente pensa di chissà che distese, che cose abbiamo, eccetera, ma noi veramente non riusciamo a dare da mangiare se non al 30% della popolazione italiana con quello che riusciamo a produrre, no? Allora, non utilizziamo per esempio questo mais, cosa assurda, per fare carburante biocarburante, ma cerchiamo di fare una cosa intelligente, facciamo delle farine importanti, facciamo delle cose particolari. Voglio citare tra i mais il biancoperla, il maranello, che sono eccellenze, che sono nicchie di produzione veramente esigue. Quindi cerchiamo di potenziare queste risorse, questi prodotti così naturali e così antichi. Il maranello è un riso, no? No, il maranello è un mais. È un mais, diciamo, con una pannocchia molto piccola, corta, e con un grano piccolo e molto, molto resistente. Bene, bene, bene. Quindi esce una farina eccezionale per la polenta. Per cui dico, se noi potessimo pensare che il nostro paese, nella sua peculiarità enogastronomica e di risorse alimentari di nicchia che stanno alla base ovviamente di questo, potrebbe essere una risorsa importantissima a livello turistico. Esatto. Quindi con il paesaggio che abbiamo, siamo bagnati da quattro mari, no? Fiumi di risorgiva. Veramente abbiamo in 100 chilometri di distanza passiamo dal mare alla pianura, alla pedemontana, alla montagna. E quindi con ambienti, climi, microclimi e prodotti incredibili, di eccellenza proprio. Io credo che veramente non ci sia posto per tutti, ma per tantissimi giovani sicuramente sì. Certo. È una cosa assolutamente condivisibile e intelligente, anche perché diciamo, questo già nell'agricoltura mi pare che, nonostante i lacci e laccioli eccetera, molti giovani stanno cercando di ritornare come imprese giovanili e cose di questo tipo. Se ci fosse una programmazione su vasta scala e se ci fosse un ampliamento, esatto, e soprattutto con una motivazione specifica eccetera, con tutto questo, come posso dire, lavoro di preparazione culturale eccetera, perché richiede una preparazione culturale, io sono convinto che molte di queste imprenditorialità sarebbero indotte a ritornare. Una volta c'era tanti contadini, adesso contadini. Esattamente, occorre fare un qualcosa, puntare più sulla qualità che non sulla quantità, presumo io, perché la quantità noi, sappiamo. Noi che abbiamo solo questo, esattamente. Abbiamo solo prodotti di nicchia. E la nostra forza sarebbe questa, diciamo. Esattamente. Sembra quasi che uno che fa il contadino si vergogni di fare il contadino oggi. Purtroppo diciamo, è un malinteso senso di, come dire, di autoprivazione, sì, se sì, vogliamo, che non ha ragione di essere, evidentemente. Bene, io direi di intanto ascoltare canzone, una seconda canzone, che è Reginella Campagnola. Oh, che bello, si ritorna ai vecchi tempi. Oh, yes. All'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'or, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. Canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Festa dal paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. Canti la tua voce, è un'armonia di pace che si diffonde e dice: se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Poi la sera al tramontare con le sue amiche se ne va e tutta intenta raccontare quel che ha veduto là in città. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ospite. Sì, allora, approfittando di questa bellissima e spensierata canzone d'altri tempi, ritornando al discorso di prima, vorrei dire che il territorio va vissuto, va utilizzato proprio per creare una nuova generazione di amanti del territorio, perché diversamente corriamo il rischio di parlare di agricoltura, parlare di territorio e di che bello vivere in campagna, eccetera, eccetera, quasi quasi solamente o sentendo le canzoni di un tempo oppure ricordando i vecchi filò. Invece bisognerebbe amare la campagna in se stessa, insomma, proprio per quella che è. Io direi che tutto quello che abbiamo, il mare, quindi i pescatori, la campagna, la pedemontana, la montagna, da sempre ci ha dato, se non ricchezza, ma ci ha dato sostentamento. Certo. Ecco. È vero. E quindi imparare a recuperare, diciamo, queste, questi territori e queste antiche arti, direi che può essere una cosa importante e fondamentale per le giovani generazioni che, ahimè, grazie anche a noi che abbiamo acconsentito a tutto questo, sì, non sono più abituati a far fatica, no, a fare sacrifici. Vogliono avere un bel posto e tanti soldi. Ecco, la cosa paradossale è che un tempo si veniva pagati per far fatica, oggi invece pagano loro l'abbonamento alla palestra. Sì. Vedi, è un segno, segno di cambiamento dei tempi. Proprio, certo. Esatto. Poi, parlando di musica, di canzoni, e mi riferisco ancora alla precedente canzone, Reginella Campagnola. Una riflessione, no? Questi canti erano così scanzonati, allegri, liberatori, ma erano le uniche cose probabilmente che al tempo restavano come, come speranza o come, o come valvola di sfogo, esatto, forse. Per un quotidiano abbastanza misero, abbastanza triste e molto faticoso. Sì, che però che tante volte adesso che c'è tutto si è più tristi tante volte di una volta. Sì, assolutamente sì, perché perlomeno un tempo forse c'era la speranza di poter sperare. E poi c'era anche più unità fra le persone, più collaborazione, più sentimento. Eravamo una comunità, una comunità. Direi che l'aberrante idea di far le case in verticale anziché in orizzontale ha portato sicuramente a questo, cioè spazi angusti dove ognuno è pronto a difendere se stesso e il suo spazio angusto con sette serrature, con porte blindate, eccetera, eccetera, eccetera. Le porte un tempo erano aperte. Sì, non, sì, non esistevano cancelli, no, e quindi però chi arrivava nel cortile, perché aveva libero accesso dalla stradina nel cortile, si fermava a 10 metri dalla porta e dava voce chiedendo permesso. Esatto. Oggi te li trovi in casa anche con l'allarme, con la porta chiusa, sì, sì, con 18 mastini napoletani. Ma vedi eccetera, come sono cambiati eccetera. I tempi da così a così? Sì, radicalmente. Proprio sì. Una maniera. Cioè, una volta si era anche contenti perché si viveva così, spensierati, si viveva... un'età dell'oro, se vogliamo, per certi versi, nonostante veniva la le gente a trovarti, nonostante sì. Le ecco, alla luce, e alla luce di queste considerazioni, direi che dovremmo pensarci, perlomeno riflettere su come stanno andando le cose e se abbiamo progredito oppure se siamo tornati quasi indietro al Medioevo. Su questo sicuro, poi queste riflessioni e queste valutazioni facciamole anche prima di andare a votare. Anche questo aiuta naturalmente a crearsi un quadro della situazione. Una volta eravamo più felici, più... Certo, naturalmente la semplice nostalgia non dà assolutamente buoni frutti, cioè non possiamo rivoltarci all'indietro, però quello possiamo parte... dire, cioè il motto della sussidiarietà, della... del mutuo soccorso. Esatto, un passo indietro verso il futuro, un passo avanti verso il passato. Ecco, questa è una cosa che merita una spiegazione, direi. Sì. Beh, è semplicissima, diciamo, non ricalca sicuramente l'antico proverbio gli era meglio quando che gli era peggio. Non vuole calcare questa massima che secondo me in parte è vera, ma in parte lascia anche un po' il tempo che trova. Ma non è del tutto sbagliato. Non è del tutto sbagliato. Anche perché noi rimpiangiamo sempre quello che è passato, eh? Certo, lo si vede naturalmente col filtro. Sì, eccetera. con un altro però, occhio. Diciamo, quello che rimane, che sedimenta, è realtà, non è che si possa snaturare o negare quello che è successo. Certo, il lascito del passato, diciamo. Un passo indietro verso il futuro. E un passo avanti verso il passato. E un passo avanti verso il passato vuol dire non credere sempre completamente in toto a ciò che oggi e per il futuro ci viene propinato viene propagandato come il più grande successo interplanetario dell'umanità. E quindi vuol dire attenzione, non crediamo a tutto, pesiamo con la nostra bilancia, con la bilancia altrui. È vero. Quello che ci viene proposto. Un passo indietro verso il futuro, un passo avanti verso il passato invece significa prendiamo da tutto quello che c'è stato le cose positive, utili, valide, che hanno fatto progredire generazioni e generazioni. Quindi utilizziamo diciamo una via di mezzo, non propendiamo assolutamente per i consumi inutili. Ecco, questo perché è fondamentale. Perché questi danneggiano solo noi e portano utile solamente a pochi. Non si vede altro che consumismo, anche perché di certe cose si potrebbe anche fare a meno. Certamente, sono i bisogni indotti e tutte queste cose che naturalmente sappiamo. Sono contento di me, che vo solo per i campi, che mi sento per terra, che mi avoco posso, che mi rido comagno, che te penso e non basta, che vo a caccia con voi, che son quasi il meccan. Bello. Sono contento di me. Era la cifra di una volta. Dio vede, Dio provvede, sia fatta la volontà di Dio. E questo diciamo, non avere, come dire, superbia dell'autosufficienza, che poi si è visto come è andata a finire, naturalmente. Sì, oggi sembra che noi tutto possiamo, ma in realtà poi ci arrendiamo alla stagione piovosa, alla stagione secca, e forse capiamo da lì che non riusciamo, per fortuna dico io, a governare il mondo in questo modo, a comandare tutto e soprattutto gli umori del tempo, che come si dice da noi le sta da sposare apposta per non far quel che vuole. È vero. Ho detto stamattina io sto bel proverbio. Certo che ci sono queste considerazioni che sembrano arcaiche, parlandone eccetera, però io trovo che siano invece di una modernità straordinaria. Sì. Perché richiamano, per esempio, il fatto di dei lavori seguendo le stagioni, compagnia, l'inverno, al riposo, eccetera, a mettere a posto gli attrezzi e tutte queste cose, durante la stagione andare per vendemmiare, bruscare, dicevano una volta, per la potatura delle viti prima, e tutte queste cose scandivano i ritmi. Ti conduce ad una tempistica reale e naturalmente immutabile, se vogliamo, e l'accelerazione brusca che è stata data alla vita dell'uomo mi pare che abbia creato non pochi fastidi, cioè, non pochi problemi. In primavera si bruscava, si bruscava. Ma anche fino a inverno, mi pare. Sì, sì. Esatto. Si brusca, come si dice in italiano? Si pota, la potatura delle vite. Tanto per dire che queste stagioni, eccetera, questa scansione immutabile nei millenni, eccetera, ha subito una brusca accelerazione con l'inurbazione, diciamo, delle persone, con lo sradicamento da parte dalle campagne alla società. A come parte dire. Che anche il tempo non è che sia proprio quelle stagioni come una volta che sentivi la primavera, che sentivi l'autunno. Certo, ma poi era appunto tutto quanto scandito da queste. Comunque, se posso dare un consiglio, il consiglio è questo: a giovani e a meno giovani, fermatevi qualche momento, guardate la natura, capirete molte più cose. Esatto, questo è come dire sempre valido. E quindi, tanto per rimanere in tema, noi possiamo passare alla terza canzone, che è Se vuoi godere la, goder la vita di Beniamino Gigli. E quindi restiamo in tema. Non cerca e non sogna la grande città, un dolce suon di zampogna e tanta pace nel cuore. Se vai goder la vita, vieni qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. E svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliolo un fiore nato sulla collina, bacia in una dozzina, che felicità, se vuoi goder la vita. Torna al tuo paesello che sei più bello della città. Fasci lucenti di grano, sembra ogni falce un baleno, tutto un sapore nostrano, profumo di pieno di grappoli e fior. E la sorgente pian piano mormora un canto d'amore. Se vuoi goder la vita, vieni qua giù in campagna, è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. E svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, e bacia la tua compagna che t'accompagna col suo marello. Ogni figliore è un fiore nato sulla collina, e bacia in una dozzina, oh, che felicità, se puoi godere la vita. E torna al tuo paesello che sei più bello della città. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il quale ci delizierà adesso con altre informazioni dal mondo contadino e non solo. Diceva bene Beniamino Gigli, giusto? Esatto. Se vuoi godere la vita, vieni con me in campagna. Ecco qua. in campagna ciò di cui non parlano... le culture, diciamo, ufficiali, perché culture ufficiali non sono, a marzo, fine febbraio, primi marzo, rosoline. E che buone dopo che i sono bruscandoi, i bruscandoi, per fare risotto con i bruscandoi, con i ciopettini. E radicee, i pisacan. Quali sono i pisacan? È il tarassacco. Ah, tarassacco. Ecco, ecco, qualche delucidazione forse è opportuna, anche perché noi, non volendo, ci stiamo espandendo, diciamo, ci allarghiamo, abbiamo un uditorio composito e anche, come dire, di estrazione anche giovanile, sorprendentemente. Sì, sì, quindi effettivamente avremmo sì. comunque la, diciamo, la necessità, al di là della musicalità del termine in veneto, di dare qualche spiegazione in italiano quando possibile, perché non so se tutto sia traducibile, diciamo, ecco. E questa volta siamo stati fortunati. Sì, e allora, a proposito di bruscandoi. Quando che te cammini ne è staion de marzo, certo che no su asfalto di città, te ti incorsi che pena fora dell'erba drio arriva del fosso, tra il sambuco a volte, o e prime ortighe, o in mezzo a eroe dell'an passà, spuntar una roba verde, manca un fiero setta, con una capea di un sparaso, ma soio sul someiar, perché de vero a sé tanto pipicinina. E ora te ti avvicini, ma soio che quel pensiero, e invece te sta fermo, come pietrifica, una lagrima sui occhi, un castano gli si spunta. Ecco l'aspettativa. Ogni anno praticamente ritrovare quello che sembrava perduto per sempre. Sì. È il bambino che... E il bambino, diciamo, che è la sorpresa. Esatto. Ecco, no? E allora... il bambino che era in ogni adulto, esatto, all'epoca. Esatto. E anche che è ancora rimasto tutto sommato. E anche questa, la forte carica emotiva che la campagna e la natura in genere dà, no? L'attesa, esatto. La speranza. Vero. Del nuovo frutto che si rinnova. Ma poi i bruscandoi col tempo va avanti, cresce, e allora d'estate diventano forti, imponenti, e quindi si arrampicano. Cioè i bruscandoi cosa sarebbero? Il lupolo. Ah, il lupolo. Selvatico. Sì. E quando si arrampicano tu li vedi bei, tacai, intorcoeai, rampegai, bruscandoi sui pai. Evocativo, come sempre. Sì. E poi a luglio il primo fieno. Se vogliamo fieno, andare a mangiare. O fen in dialetto, ma fen vuol dire fieno e vuol dire anche facciamo. Ah. Nu fen, noi facciamo. E allora, per questo mix, diciamo, di situazioni e di termini così diversi, esatto. Così diversi. Fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen, fen. Ma non l'avevo mai fatto. Sinistra Piave, tipicamente. Sì, noi no, non diciamo. Esatto. Ma è una, diciamo che si è conservato al meglio dalla Sinistra Piave, diciamo, il nostro arcaico dialetto, se ecco, vogliamo. Ma direi che poi anche una peculiarità del dialetto sono queste forme diversissime, no? Dal... che si trovano a distanze ravvicinatissime. Molto, ecco. Parliamo di 5 chilometri, sì, di 10 chilometri, esatto. Di 15 chilometri, no? Sembra quasi, per certi aspetti e per certi termini, un'altra lingua. Microcosmi. Ecco. E quindi secondo me questo è da conservare, da valorizzare, non da mettere tutto in una pentola e fare un unico caglierone. Sì. È un arricchimento la diversità, chiaramente. Esatto. Perché... ma in tutti i sensi la diversità è un arricchimento. Che rispecchia quella diversità e anche il modo di lavorare. Non solo quello di chiamare le cose, di individuare le cose con termini diversi, ma tante volte proprio in relazione al tipo di terreno e alle, diciamo, peculiarità che aveva la zona, prodotto, diciamo, del terreno viene lavorato in un modo diversamente, in un terreno vicino lo stesso prodotto viene lavorato in un modo diverso. Sì, con tecniche magari diverse. Esatto. E ci sono cose straordinarie nella natura, rincorrersi e ricorrere di fenomeni, eccetera. La vendemmia mi pare che sia rimasta uguale, no? Adesso tirano giù sti grappoli. Ma a vedere adesso la vendemmia, allora la vendemmia è l'ultima fase, no? Sì. La prima fase è l'impianto della vite. Oggi ovviamente fanno degli impianti che hanno delle caratteristiche particolari, perché mandano su un attrezzo infernale che è una grande macchina con due doppi bracci che toglie gli acini, aspira gli acini dal grappolo, diciamo, lasciando la raspa, e convoglia tutto all'interno della macchina. Meccanizzazione. C'è una meccanizzazione. Secondo me toglie anche il gusto la macchina. Mamma mia. Come dire, io ho avuto, come dire, così il piacere, se vogliamo, ci sono capitato come al termine della civiltà contadina, molti anni fa, anni 50, eccetera, e c'era questo gusto della vendemmia, naturalmente questo spirito di comunità, questo ritrovarsi per un rito, era un rituale straordinario. E questo l'ho ritrovato dopo molti anni ed è un qualcosa che per me è irrinunciabile, almeno una giornata o mezza giornata, se non posso, devo ritornare a fare questa, come dire, ed è un ritrovarsi, una cosa che diciamo non che è oggi difficilmente è una creazione. Oggi l'aspetto costistico è imperante, no? Oggi non soprattutto nelle grandi aziende vitivinicole non è più pensabile chiaramente. Anche per i termini di maturazione del prodotto non è più pensabile, perché ci metterebbero una vita, non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico, mano d'opera, diciamo. Ma poi anche la vendemmia, se abbiamo grossi appezzamenti di terreno, deve essere per forza intensiva, chiaramente deve essere fatta in un certo tempo. Quindi, si salvano ancora i piccoli appezzamenti, perché non sarebbe i piccoli appezzamenti lo possono fare tranquillamente, esatto. e quindi magari rimane la trovi ancora, ecco, la festa. Esattamente, quello è lo spirito di condivisione, ma nei grandi cose le feste erano 3 o 4 nell'anno, la vendemmia il grano, la vendemmia, la trebbiatura, era una festa anche quella, esatto. Sì. E il pane vin. Certo, la vendemmia è il termine di un ciclo straordinario che poi chiaramente è anche la stagione che si sempre presta aleatoria anche, dal punto di vista dei fenomeni atmosferici. E poi lì succedeva quello che dicevi prima, tutti aiutavano tutti. Esattamente, questa andare a opera. Esatto. Si andava a opera, si dava un reciproco aiuto, naturalmente in attesa di riceverlo dagli altri. E queste sono cose che naturalmente potrebbero insegnarci qualcosa come uomini d'oggi, o sbaglio? Cioè, potrebbero insegnarci, ma sicuramente, solo che un tempo non c'era il business. Questo no. oggi c'è il business, io devo difendere il mio prodotto, tu devi difendere il tuo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi se facciamo tutti e due porcheria, una bella etichetta, una bella bottiglia, si presenta bene, certo. E qualcuno dice che sa di muschio. Ecco. E noi invece come antidoto a queste cose, naturalmente per ritornare invece allo spirito del tempo, allo spirito dell'epoca, andiamo con un'ultima canzone che è La vendemmia dell'amore di Luisel. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Tu cadrai nelle mie braccia come i grappoli dell'uva che teniamo nelle mani. Quando il sole di settembre scenderà sulla campagna canteremo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Quando poi verrà la sera, quando tutte le farfalle dormiranno sulle foglie, se davvero mi vuoi bene, ogni chicco di quell'uva ci daremo un lungo bacio. Poi tornando verso casa con le mani nelle mani canteremo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. Sarà triste dirci addio, sarà triste amore mio, ma l'amore dura un attimo. Quando credi di sognare ti risvegli tutto a un tratto proprio quando dici t'amo. Ma se un giorno sarai solo non scordarti che una volta cantavamo una canzone. Quest'autunno noi faremo sotto il cielo più sereno la vendemmia dell'amore. E ritorniamo in studio con il nostro ospite per una tranche finale di considerazioni varie sulla, come dire, sull'umanità. Allora, prima abbiamo utilizzato il termine speranza, dicendo che un tempo forse c'era più speranza in un futuro migliore, eccetera. Ovviamente, data la mia natura e quello che sto cercando di fare da sempre nella mia vita, di speranza ne ho sempre avuto, e continuo ad averla, ed è un messaggio di speranza quello che voglio dare, ma che mi conforta, perché sto vedendo, sono nate alcune situazioni di giovani che fanno ben sperare. Sono ragazzi, piccole associazioni che si interessano dei problemi del territorio, dei problemi legati alla natura, che cercano promozionano, li chiamano loro aperitivi produttivi. Come sarebbero? Sarebbe che con la scusa di trovarsi per bere un aperitivo, organizzano incontri con giovani imprenditori agricoli, con giovani chef, con giovani, diciamo, dell'agroalimentare. Sì, sì. Con giovani naturalisti. Bellissimo. E quindi è un veicolo importante per scambio di informazioni, una di culture. Contaminazione reciproca. Una contaminazione reciproca, sì. Mm-hmm. Ecco perché il termine aperitivo produttivo. No? Molto bello. Mm. Aperitivo produttivo. E poi vorrei ricordare Nuova Via. Oh, eccolo qua. Che questa associazione che abbiamo fatto nascere ormai da quasi 3 anni, che fa attività per giovani disoccupati e anziani bisognosi di aiuto e che fa attività culturali con convegni sull'autosufficienza in genere, diciamo, mm-hmm. intendendo per autosufficienza tutto quello che si riesce a fare con le cose a disposizione. Esatto, quindi se mi è consentito, culturali e colturali allo stesso tempo. Culturali e colturali perché abbiamo a disposizione alcuni ettari di terreno nei quali produciamo orticole e incominciamo, da quest'anno siamo diventati punto vendita di Campagna Amica. Ecco, questa è un'altra interessante iniziativa. E stiamo facendo, abbiamo iniziato da subito a fare un prodotto con metodologia biologica, fra un anno avremo il riconoscimento per questo lavoro. E quindi insomma stiamo vedendo che stiamo informando scuole, famiglie, vengono a visitarci, vengono a vedere i prodotti quando li piantiamo, quando crescono e poi vengono assieme a noi a raccogliere i frutti ovviamente delle produzioni. Certo, va bello questo. Questa è una cosa bellissima, sì, sì. Credo io, per i bambini, perché imparano veramente che cos'è e cosa può dare la terra. Vedono ragazzi giovani che lavorano, per cui una bambina quest'estate papà gli fa papà dice ci sono le angurie, perché avevamo esposto fuori un cartello con il disegno dell'anguria, dice andiamo a vedere le angurie, papà dice sì, possiamo, sì, dico prego venga con me. Allora la bambina, arrivata sul campo delle angurie, incomincia a guardare per aria, a guardarsi attorno, e il papà gli dice papà ma io non vedo l'albero delle angurie. Ecco, quindi c'è necessità di colture, di effettivamente io penso che questa sia un'azione sociale buona, interessante, importante, che ha avuto dei supporti notevoli anche istituzionali, che ha avuto dei supporti importanti, cito fra tutti la Regione del Veneto, l'assessorato all'identità veneta. Perfetto. Che ha capito in termini egregi, diciamo, che cosa volevamo fare e quali sono gli aspetti fondamentali importanti di un territorio. Ma anche all'assessorato all'educazione, alla scuola, che ci ha dato una mano per i bandi di concorso regionali finanziati dalla Comunità Europea, così in modo che noi possiamo fare dei corsi appunto di aggiornamento culturali per questi ragazzi. Prima di farli entrare direttamente, diciamo, in campo sì, come sì. Si dice. Ecco. Belle cose. Questa è un'iniziativa, credo io, interessantissima, anche perché va di pari passo tra la cultura teorica, se vogliamo, e quella pratica. Il mettersi in gioco, metterci le mani, sì. Che è fondamentale, certo. Ritengo, manualità e creatività, eccetera, che si è un po' perduta, diciamo, nella virtualità del presente, no? Con i videogiochi e cose di questo certo. tipo. E a questo proposito vorrei dire anche che, per esempio, nel territorio di Mogliano Veneto, lì a ubicazione Nuova Via, stiamo da un anno e mezzo, sono state recuperate le antiche pesche di Mogliano, cinque varietà importanti che c'erano. Ricordo che Mogliano Veneto è stata la prima cooperativa di pesche che dava lavoro a qualche centinaia di persone. E noi stiamo recuperando, diciamo, tutto questo, e andremo in produzione dall'anno prossimo con un progetto importante di, appunto, di recupero delle antiche pesche di Mogliano Veneto. Bene, spettacolare, bene, che insieme alla questione del mais biancoperla, del pesce d'acqua dolce, abbiamo già fatto un marchio, abbiamo già fatto un consorzio, e ci saranno giovani imprenditori agricoli a condurre tutto questo. Questo fa decisamente sperar bene, anche perché questo interesse da parte dei giovani è fondamentale. E io credo che questa parola di speranza, questa, diciamo, è proprio quello di cui necessitiamo per poter andare avanti. Beh, allora, tu sei pieno di speranza, Antonio. Sono, sì, sempre stato. Sì. E speranza, naturalmente, che non è disgiunta dal fatto di dover rispettare gli orari. E qui purtroppo il tempo sfuggit, come si dice abitualmente. Comunque, e noi dobbiamo siamo... congedare a malincuore il nostro ospite, ma naturalmente sappiamo che ci saranno ulteriori volte. Noi lo invitiamo, poi speriamo che egli voglia aderire. Lei cosa dice, signore? Allora, io vi ringrazio di tutto. Certamente ci sarò quando vorrete, bravo. Un piccolo messaggio: i padri devono necessariamente aiutare i figli ad andare avanti. Perfetto. Allora, ringraziamo sentitamente ti ringraziamo tanto, ascoltatori, ringraziamo tutti. E Antonio, ti ringrazio, ringraziamo il nostro ospite, e a tutti io dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.